Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sul Stormo Rock. Una domenica facile per quanto mi riguarda, perché finalmente ho un'altra band qui in studio che adesso vi andrò effettivamente ad introdurre. Come ho iniziato l'anno con una band bolognese, nello specifico i Damn City, vado a chiudere l'anno con il discorso delle interviste con un'altra band bolognese. Se li ho qua davanti sono i ragazzi del Corpo Estraneo, Cicco e Catto. Perché sono qua i ragazzi? Perché sono usciti con un nuovo EP, Il Risveglio, che ci andremo un po' ad ascoltare. Per chi non l'avesse ancora fatto, avrà la possibilità di farlo adesso. Comunque sulle varie piattaforme digitali c'è tutto, c'è anche un bel disco sotto la Devalishi Records che potete sicuramente comprarvi, se non c'è ancora copie, credo, penso. Sì, è sì, sul sito, cioè, quasi sold out sul sito della Devalishi. Noi delle copie, volendo, le abbiamo. Esatto. Se qualcuno è interessato, un messaggio. Messaggino, oppure cogliamo subito l'occasione per dire che sabato 20 dicembre suoneranno al Vecchio Sony insieme a No Sbaraccati di Gruppi, quindi esatto. Serata hardcore al Vecchio Sony. Sarà la serata in teoria del release del disco, anche se è uscito fisicamente a giugno, è disponibile anche da Devalishi, un po' dappertutto, in diversi posti anche in Europa e in Italia, però diciamo che la release non l'avevamo ancora fatto per questioni di tempo, di impegni, eccetera. Adesso ne approfittiamo entro la fine dell'anno, appunto, di farlo uscire ufficialmente con questa fantastica data al Vecchio Son del Buon Steno, e saremo in compagnia di Light Inf, Biswox e La Piena, gruppi tutti molto validi. Assolutamente sì. Bene, bene, bene, molto interessante, ovviamente poi lo ripeteremo. Sì, comunque potete trovarli anche su varie piattaforme come su Gore, su Coretex, su chi, anche gli altri gruppi o il disco? Il disco. grazie per la puntualizzazione. Sì, è vero, ma volevamo flexare Coretex per quello, con una scusa per... Esatto, per fare un po' i maragli. Anche Revelation in California, nel caso vi succedesse. Se passate da quelle parti. Se siete da lì a Venice Beach, potete trovare l'album lì. Esatto. Adesso, senza flexare eccessivamente, noi abbiamo la fortuna che, grazie a Devalishi, che ha tanti contatti importanti, il disco è potuto volare anche oltreoceano, è distribuito sì praticamente dai posti principali della, esatto, scena hardcore. Siamo molto molto grati, molto fortunati per questo, chiaramente. Esatto. E mi fa veramente un sacco di piacere quando ho visto effettivamente il disco dei Corpo Estraneo sotto la Coretex, sotto la Revelation. Ho detto, boia, tanta roba. Sono belle soddisfazioni. A voglia. Bravi ragazzi, ma dato che la domanda introduttiva ve l'avevo già fatta, volevo leggermente iniziare la puntata prima di andare a parlare effettivamente del risveglio del nuovo EP, di questa data fighissima che avete fatto in apertura di Shelter quest'estate. Quindi giusto qualche piccolo incipit per quello che è successo, un po' anche come è successo, perché io conoscendovi ne abbiamo parlato veramente ampiamente e mi fa veramente un sacco di piacere, però anche lì vedersi Corpo Estraneo in apertura di Shelter non è da tutti. Queste due date, una a Berlino, l'altra a Vienna, se non mi ricordo sono male. Sono state la prima Vienna e la seconda Monaco, comunque Austria e Germania, quindi sì. Qualche piccolo incipit e poi dopo andiamo con il resto. Maestro, vado io. Allora, chiaramente tutto è stato organizzato dalla nostra etichetta, che ha, diciamo, i contatti giusti. Esatto, gli agganci giusti. Gli agganci giusti, e siamo riusciti a coprire questi spazi in apertura agli Shelter e anche gli Speedway. Nominiamo anche gli Speedway, che sono dei bravi ragazzi, sono veramente fighi. Molto validi. È al trentennale del disco Mantra degli Shelter, quindi hanno fatto tutta la scaletta di quel disco lì, loro erano carichi duri, noi anche. L'unica cosa che si può dire è che è stata chiaramente una grande emozione, perché gli Shelter per tutti noi sono stati un ascolto fisso di questi anni, no? Sono anche un po' un'ispirazione anche a livello di contenuti, visto che anch'io comunque seguo la filosofia che loro seguono, e trovarsi in un ambiente serio come quello, no? Cioè, trovarsi in apertura una band veramente che è stata veramente importante, grossa negli anni 90, e essere lì ad aprire per loro è stato molto emozionante. È stata una sorta di, come dire, traguardo, no? Possiamo dire. Sì, assolutamente, un traguardo che onestamente non mi aspettavo. È stato un fulmine a ciel sereno avere questa proposta e riuscire ad aver realizzato questa cosa. po' un piccolo sogno che si avvera. Sì, assolutamente. È proprio un altro pianeta, sì, rispetto ai posti dove abbiamo sempre suonato, bazzicato, frequentato. Lì il livello è proprio un'altra cosa, sia a livello di suoni, di cura, a livello tecnico, è proprio tutto un altro. Cioè, noi infatti siamo degli scappati di casa, cioè, trovarci lì con loro, sì, capito? A quel livello, cioè, così alto, professionale, sì, con tutte le modalità del caso, sono cose che non sei abituato, sì. Quindi cioè, ti ritrovi tipo quasi imbarazzato. Certo. Sì, con i camerini col tuo nome, con il buffet con il tuo nome, che è praticamente una stanza piena di cibo, tutta a tua disposizione. Sì, tu vai in giro a chiedere, ma posso mangiarlo questo? Sì, esatto. Senti il colpo come un lancio. Ma è veramente per me. È veramente per me. È stato, sì, noi da bravi tipo provinciali siamo arrivati, lanciati in questa situazione. I campagnoli. Ammetto che i concerti, devo dire, soprattutto Monaco, sono andati molto bene. Anche la risposta del pubblico è stata notevole, ma questo all'estero è sempre più o meno così, perché la gente è presa bene con le novità, sì. E soprattutto a Monaco abbiamo anche dato via un sacco di merch, che tu dici, un gruppo italiano hardcore che canta a Monaco, chi cavolo mai se lo segue? Invece per fortuna che c'era la mia compagna con noi che ci ha aiutato, che parla anche bene l'inglese, che salutiamo, che dovrebbe starci ascoltando. E fortuna che c'era lei che ci ha aiutato con la distribuzione, perché abbiamo dato via una marea, sì, era, di dischi, di maglie, incredibile, cioè non sembrava vero, capito? Cioè, il banchetto preso d'assalto, noi stessi siamo rimasti. Ma ti dice, ma sono sicuri questi che vogliono comprare la roba? Sì, esatto, non è che sono per gli shelter, questi. Hanno sbagliato la zona del banchetto. Noi siamo quei bagagli che ha suonato all'inizio. Esatto. No, bene, mi fa veramente un sacco piacere. E come dicevo, entriamo in diretta, entriamo un po' nel vivo per quanto riguarda il corpo estraneo, a parlare effettivamente del risveglio. Sono sempre un sacco di tematiche dietro a quello che andate effettivamente ad esporre. E una macchina da musica, sostanzialmente, perché infatti quando ci siamo sentiti un attimo per sentire, detto, guarda, sono un po' in ritardo anch'io, se siete in ordine per venire in intervista, bene, se però mi dici, guarda, tra due mesi usciamo con un'altra roba, ci sentiamo direttamente con quello nuovo. Questa è colpa sua. Sì, io ho la fortuna di avere sempre una discreta ispirazione. Devo dire che sì, è effettivo. Oddio, una fortuna, una sfortuna, non lo so bene di precisione. Per me è una sfortuna, mi, sì, tocca starti, sì, dietro. Cicco mi odia quando arriva in salette con dei riff, lui proprio tutte le volte, ma ancora dell'altra basta, roba, basta. Non è ancora uscito l'album e questo c'ha già un disco in mente. Tra l'altro è stato divertente, perché proprio parlando di risveglio, buona parte delle tracce, no, ma parte delle tracce, alcune sono state terminate proprio poco prima di andare a registrare. Che non avevamo proprio tutte le idee chiare. Avevamo voglia di far uscire qualcosa, ma non avevamo bene in mente tutto il progetto, cioè tutte quante parti fare, quante canzoni fare. E poi niente, siamo finiti in un turbinio di praticamente prove da soli, io e lui. Abbiamo avuto un po' di balletti a livello di formazione in questi anni. Io e Cicco siamo rimasti gli unici, diciamo, al timone della nave, fissi. Nella formazione originale, esatto. E quindi niente, ci siamo trovati in questo turbinio di prove a due, dove tra l'altro io venivo da suonare il basso, perché con gli shelter io ho dovuto coprire la posizione di cantante e bassista anziché con la chitarra come faccio di solito. E quindi alle chitarre c'erano i due Umbe, che, sì, insomma, salutiamo, esatto, calorosamente, affettuosamente. Insomma, il disco, esatto, ringraziamo ovviamente, giusto, bravo, ringraziamo i ragazzi che fino ad oggi hanno suonato, sì, con, sì, noi, a partire da Leo, il nostro bassista originale, a continuare con Bolo, con Umberto, che ha suonato la chitarra con noi per un po' di tempo. L'Umberto, che avevano due Umberti nella band. Umberto, ecco perché era il doppio Umbe. Il doppio, sì, Umbe, sì, sì, c'è, cioè, Umbertino e Umbertone. Cioè, uno era tipo la confezione, l'altro era il contenuto, perché le dimensioni erano un po'... tipo Matrioska. Esatto, la Matrioska degli Umberti. E poi dopo adesso c'è anche il buon Davide, che è il nostro bassista fisso già da un po' che di salutiamo tempo. Salutiamo calorosamente. Che è un pazzo di magenta, pazzo detto chiaramente con simpatia e affetto, un pazzo di magenta che tutti i martedì se ne viene alle prove. Viene alle prove, si fa 2 ore e mezza di macchina, suona, mangiamo, dorme da me e la mattina riparte per casa. Un eroe. Carico duro. Sì. E praticamente sta diventando davvero quello su cui poggia tutto, perché la sua presenza comunque è solida anche a livello strumentale, no? Quindi è molto in gamba. È molto in gamba. E lui davvero ci sta salvando. E poi adesso stiamo provando un altro ragazzo alla chitarra, di cui non facciamo il nome. Salutiamo anche lui se non si offende. Esatto. Comunque, ciao bestia. tornando al discorso iniziale, certi pezzi li abbiamo terminati così un po' di corsa, no? ed è stata una sfida, perché sai, quando provi tante volte in due, tante tracce, noi con il basso ad esempio, che in quel momento non avevamo, e poi dopo le senti quando sei in studio, praticamente fatte finite col basso, due chitarre, ti mancano degli appoggi, ti mancano delle cose, però comunque fortunatamente grazie all'alchimia che c'è tra me e lui, che ormai ci conosciamo a mena vita, suoniamo insieme da una vita, siamo riusciti a tirare fuori un prodotto secondo me valido. Poi grazie chiaramente anche a Carlo del Toxic Basement, che è sempre una garanzia. Esatto. Tutto è caduto bene, diciamo, tutto si è incastrato bene. Il nostro quello che Umberto, che all'epoca suonava il basso con noi, era andato un po' in paranoia, lui da bravo metallaro diceva: ma voi che metodi avete di fare le cose, fare i pezzi, non c'è una preproduzione, un po' non c'è a caso, cioè, lui era in paranoia nera, capito, anche ad andare in studio non sapeva se veniva, non veniva, fate voi, faccio, insomma alla fine non siamo, noi, un po' alla buona, cioè. noi come dicevamo oggi, cioè, parlavo stamattina con, appunto, col Davidone, il nostro bassista, c'è una certa, come dire, adesso mi viene il termine di nuovo, c'è una certa spontaneità tra me e Cicco. Io arrivo con un riff, lui sa già quello che io mi aspetto, e nonostante, anche se le tracce le abbiamo fatte, diciamo, un po' di fretta, avevamo voglia di andare a registrare e siamo andati comunque. Noi avevamo la punta con Caro, ho detto: noi arriviamo con che siano 5-6 pezzi, li facciamo quello che viene, e devo dire che è venuto tutto molto bene, anche oltre le aspettative. Certi pezzi davvero sono stati chiusi una settimana prima di andare in studio, cioè, sì, avendoli suonati. Io comunque in tutto questo non avevo la minima idea delle liriche, non avevo, cioè, sapevo gli argomenti delle canzoni, ma lui non aveva mai cantato sulle tracce nuove, quindi io andavo solo con la musica, e quando siamo andati a registrare, sentire la voce è stato una figata pazzesca. La voce è una sorpresa anche per me. È una sorpresa, cioè, come la sorpresa finale dell'album. Se noi siamo abituati a fare le tracce, la musica, io porto i riff, poi ci lavoriamo un po', principalmente siamo sempre io e lui. Però le liriche io me le lavoro a casa. Io scrivo, dopo che ho i pezzi, scrivo i testi e non li canto in sola prove. Io canto solo la roba che abbiamo già registrato. Io canto per la prima volta in studio. Come ho visto che anche tanti artisti famosi sono stati abituati a fare nel tempo, io me le provo a casa, me le ricanto sulle basi nude, senza niente, e poi le canto per la prima volta in studio. Quindi è sempre una sorpresa per tutti, me compreso, perché non sai mai poi se effettivamente si appoggiano bene sulla struttura del pezzo, e poi dopo le impariamo, dopo che le abbiamo fatte in studio, fatte finite, che ci arriva il prodotto finito, ci mettiamo in saletta a reimpararle. Se prima avevi una linea guida solo musicale, o con la voce in più, cioè, diventa un doppio casino. Sì. No, fantastico, bella però sta ci roba. Si abitua alla fine, sì, bella sta roba, non la sapevo sinceramente. Sì. Quindi brevemente qualcosa da dire prima di ascoltarci La Vita Eterna? Che è un gran pezzo questo, che il riff finale in studio siamo diventati matti a registrarlo. È facile fare metallare in saletta dove sei sciallato e tutto, ma poi in studio con col tasto rosso che recca non è così immediato. Sei a nudo, che vengono fuori tutte le tue, diciamo, lacune. Esatto. E lì diventa parecchio impegnativo. I punk che provano a fare metallari e delle volte si possono inciampare. Si trovano. Sì. E torniamo in diretta sempre a parlare con il Corpo Estraneo per quanto riguarda il risveglio. Abbiamo parlato un attimo di questa data che ci sarà il 20 di dicembre, quindi collegandosi un attimo a questo discorso di live, avete altre date già confermate che io sinceramente non ricordo, o qualcosa che state valutando e uscirà magari più avanti? Allora, per adesso dovremmo essere il 25 gennaio a Parma, con il Sud Disorder, Erezione Continua, esatto. Beh, tra l'altro bel nome. E poi dopo penso verso maggio al Perla Nera, su verso Alessandria, dico bene? Esatto. Però sì, adesso poi di mezzo ci sono altre cose in ballo che stiamo cercando di valutare. Ci piacerebbe anche infilare un piccolo tour per promuovere un po' il disco nuovo, e vediamo un po'. Tra l'altro vedo che stanno tornando gli Shelter, hanno pubblicato ieri l'altro le date del tour nuovo in Europa. Chissà la replica. Non sarebbe male. Sarebbe molto, sono molto date, bello. Sono date in altre, rispetto all'anno scorso, ovviamente, sono tutte altre città. Non sarebbe, c'è qualcosina anche di qua vicino, come Praga, come Norimberga, insomma sono un po' di cose interessanti. Vediamo come si muove la macchina degli agganci, se riusciamo un po' a partecipare almeno una o due di queste. Già, anche una andrebbe molto bene. Sì. Probabilmente comunque una o due andremo anche a partecipare anche come spettatore, esatto. Insomma, infatti una cosa bella che volevo aggiungere rispetto a prima, visto che ci hai chiesto di Shelter, una cosa che scusa se riprendo la domanda vai. Io non avevo, quando siamo andati a suonare, ne eravamo tutti casati perché aprivamo gli Shelter ovviamente, ma non avevo realizzato che io me li sarei anche guardati, no? Io avevo solo pensato che avremmo suonato, non ho pensato che mi sarei visto. Il focus era sul suonare, non era sul cazzo, ma li guardiamo anche, no? Li vediamo anche per due volte, no? Io sono un fan, giustamente. Ed è stato. E hai rischiato anche quasi la morte a Monaco. Sì, sono stato investito da un treno che saltava dal palco. Io ero lì in meditazione, braccia alzate, a cantare un tipo macentrato dal palco. Ci siamo quasi uccisi. Arriva letteralmente un missile dal palco. Grazie a Dio che quello dietro di me ha attutito la caduta. Quindi la spinta del tipo che è saltato, tutto il mio peso, tutto su questo poveretto che è caduto di teschio. Vabbè. Comunque, non si è fatto granché, però è stato bello questo, cioè il fatto di andare lì talmente concentrati sul suonare, sul fare bene e realizzarci, caspita, suoniamo ma ci vediamo anche il concerto degli Shelter, che figata, è stato molto bello, cioè, no. Poi il trentennale di Mantra, comunque un disco comunque obiettivamente storico, ha fatto tutta la scaletta lì, è stato molto bello, poi gli Shelter obiettivamente creano un'atmosfera sul palco che è speciale, bisogna dire la verità, c'è un mood, no, tutto quanto, c'è un po' sai gli incensi, i discorsi di Ragunath, così è tutto molto, insomma, si sta bene, un bel momento. 333 180 94 94, me l'ho dimenticato, se qualcuno volesse mandare un messaggio tramite WhatsApp, anche semplicemente un saluto, lo può fare. Solo insulti, niente saluti. Esatto, vediamo cosa salta fuori, se qualcuno si prodiga. Scusate. Mentre a livello estetico ho riconosciuto la mano sempre di Marco Divertimenti, che penso, che sia sempre anche questo un altro appoggio consolidato. È un capisaldo, assolutamente. Capisaldo, sì. Il buon Marchino è il nostro salvatore. Noi collaboriamo dai tempi dei Ranimaniacs, che è la prima band che abbiamo condiviso i lavori con lui. È una garanzia, poveraccio. Poi io ho un modus operandi un po' così, nel senso che ho le idee ma non so come realizzarle, e soprattutto arrivo sempre all'ultimo a chiedergli le cose, ecco. Quindi lui poveretto si trova le mie richieste con l'etichetta che ti chiede la copertina tra una settimana, e io gli arrivo lì, capito, due minuti prima, dico, poco come con le liriche dei pezzi. Esatto. Ho bisogno che c'è qua, aiutaci, darmi l'etichetta che vuole la copertina tra una settimana, muovi il culo, facciamo in fretta. E lui incredibilmente non mi ha mai mandato a cagare, già questa è una buona cosa, anzi ha sempre esaurito in maniera eccellente le nostre richieste. Lui è un altro dei punti fermi, un artista tutto tondo, lui veramente molto bravo, dai, no, davvero è top, molto interessante anche questo. Effettivamente anche qui, come la volta scorsa, gli hai dato una sorta di spunto, bravo, per poi dopo andare a sviluppare. Esatto, no. Sì, mi sono un po', ammetto di avere un attimo provato io un po', sai, a ciappinare. Adesso ci sono tutte le agevolazioni dell'intelligenza artificiale, però comunque la mano di un artista umano, reale, non artificiale, è un'altra cosa. Io infatti non uscire mai con una copertina fatta come dire da un computer, perché è bello che ci sia uno scambio anche con l'artista che opera, però lui si è fatto un lavoro completamente, cioè, centrato, reale, ecco, rispetto alle mie idee. Insomma, gli ho mandato qualche sketch così e lui ha subito, come sempre, centrato il punto, tra l'altro in due proposte me ne ha mandata una, già la seconda era proprio quella buona, e siamo partiti, insomma, dai. Quindi Marco Lorenzini e AKA Raudi sempre on top, sempre sul pezzo. Seconda parte di L'Estromon Rock, sono sempre qui in studio con i ragazzi del Corpo Estraneo, Cicco e Catto, batteria e chitarra, voce dall'altra parte. Dai, voce, insomma. Quella che c'è. Sì, io, quel poco. A parte, adesso, piccola parentesi, mi ricordo che tempo fa, col fatto che non essendo abituato troppissimo a cantare, avresti preso qualche lezione per riuscire a reggere. L'ho fatta con il buon Nevruz, che sicuramente qualcuno in onda conoscerà, che è un professionista reale, cioè, per quanto è eccentrico, è un gran personaggio, è un figo. Però sono io che faccio fatica a mezzare il compito quando sono dal vivo. Okay. E in saletta faccio un maraglio perché tiro fuori i riff, è facile tutto, però poi cantarci dopo diventa complicato. Diciamo che ultimamente ammetto con umiltà che va un pelo meglio, dai. E dovrebbe, adesso anche qui non spoiler, però dovrei in futuro cominciare delle lezioni con qualcuno della scena bolognese molto capace che si è offerto di darmi una mano. Ok. E speriamo che... lui si è visto che siamo adesso molto, molto in confidenza e a parte che facciamo le prove al vecchio son dove lui opera, appunto, ha detto che lui sta facendo dei corsi di canto per diverse persone, gli ha chiesto se prende a mano anche a me e ha detto che cerca di trovare uno spazio anche per me perché è un po' pieno tra la voce, la fisarmonica e l'armonica, scusa, che lo insegna, e ha detto che prova a dare una mano anche a me. Sarebbe figo. Lui è Steno, caspita, tiene un'ora e mezza di palco a 60 anni. Lui è una bestia, quindi imparare bene la tecnica da lui non sarebbe male. No, vabbè, dai, quindi se era giusto per questo spunto che mi ricordavo. Bravo. Che avevi parlato da là. Da mi ricordavo, dai, avevi detto, raga, io sono a metà a scaletta, non ho più voce, prima o poi prenderò delle prima lezioni. Poi, esatto. Dai, io giustamente sul palco mi metto a nudo, io lo dico sempre a Calfoni, che dico dammi della voce in spia, perché tanto dopo un pezzo io perdo la voce, almeno mi sento alla prima e poi dopo andiamo a rabattare un po' come abbraccio. Si dice. Esatto. Ieri sera Cico ha detto che nonostante anche ieri sera quando perde la voce ovviamente canta meglio. Ah, uno si impegna e poi no, gli arriva un timbro talmente, come dire, sguaiato, straziato, che sembra quasi proprio più aggressivo, più hardcore. Ah, cioè, cantante crust diventa, quasi, che a me piace, non dispiace. Cantante treste invece che crust. Esatto. Però adesso non so se vi ricordate, c'era il buon Zoli quando suonava nei Gorgonzoli negli Ignite. Questa non me l'aspettavo, sì. Questo era bruttino, però prima di lasciare gli Ignite sempre aveva detto che c'era lui si beveva sto succo di banana, succo di banana, assolutamente, quindi magari se vuoi proprio senza zuccheri, non so. Tanto se io sono un esagerato fan della banana, che è detta così, vabbè, comunque del succo alla banana posso provare, potrei provare. Io portavo la tisanina e lo zenzero che tutti mi prendevano in giro, calda ci sta nel suo coso, nel beverone, no? Diciamo. Esatto. Però un po' che non la faccio perché, sai, va portata calda. Ieri avevamo il check alle 4:30-5, il concerto 10:30, cioè sì, ciao. C'è una borraccia veramente valida per mantenere il calore. Dovrei ricominciare a farlo effettivamente, con un po' aiuto comunque a tenere idratate le corde vocali, eccetera. Però sai, quando sei lì, cambio palco, sei in fretta, fai una roba, fai l'altra. E uno si mette tipo sempre in ordine, poi quando arriva lì si dimentica, esatto, di fare tutto perché non fai balotto, o conosci qualcuno di nuovo, certo, o parli col fonico, o da una cosa tira l'altra, tutti i tuoi programmi vanno a farsi friggere. Esatto. Beh, come il riscaldamento mai fatto. Perfetto. Poi perfetto. Arrivi sul palco che dopo il secondo pezzo sei da gettare nel pattume. Fantastico, col fiatone tutto bagnato. Col fiatone, le braccia, esatto, rigide come delle travi di legno. Va bene, dai, adesso a parte questo piccolo un passant, come si può parliamo un attimo, torniamo un attimo a parlare un po' del disco e della band, dato che comunque avevamo un attimo iniziato dicendo che siete sempre, per colpa di Catto principalmente, con ricerca di nuovi brani e quant'altro. Quindi vi chiedo, prossimo anno uscirete già con qualcosa? Non c'è tantissima carne al fuoco, però come abbiamo 5 minuti questo tira fuori della roba, quindi sì, io dico di sì, ovviamente se il buon Dio ce lo concede, però tempo, impegni, sbattimenti. Io adesso, cioè, mi è nato anche il secondo figlio che ha 4 mesi, piccolo, quindi sai, i tempi adesso sono un po' cambiati. Però comunque il martedì sera noi siamo al vecchio son sempre fisso, carichi con le prove, quindi se non dobbiamo preparare una scheletra per un concerto, io un po' di materiale in testa ce l'ho sempre, per fortuna, e penso proprio che 5-6 pezzi per un nuovo EP l'anno che viene li dovremmo tirare fuori. Cioè, l'idea c'è, poi se hai sentito il disco nuovo è un pochino più metal, diciamo, c'è un qualche venatura un pochino più metallare di quello vecchio, quindi visto che adesso abbiamo dato la molla alla vena trash, qui siamo molto affezionati. Esatto. Vai un attimo a sfogare anche quella. Sì, mi sa che ci cacciano dentro anche quella, così la roba diventa ancora più tammugna, massiccia. Io dico cazzuta di solito, cazzuta, un termine che mi piace. Rende l'idea. Dovrebbe esserci anche mia figlia di 7 anni che ascolta e volevo Ah, ah, essere un pelo. Volevo far sentire che papà, insomma, non dice le parolacce in radio. Ma, infatti, ma era troppo tardi. L'ho detto io. Ma l'avevano già detto, lungo le chiacchiere. Niente, comunque sì, insomma, l'idea c'è, dai, vediamo cosa viene fuori. Oh, quasi a metà della seconda parte di Nestor Monrock, sempre collegato, l'abitudine di dire collegato perché solitamente ho un telefono davanti a me, sono in diretta su Instagram, tra l'altro Cico, grazie, ti ringrazio tantissimo che spesso ti colleghi. Ti vengo a trovare spesso e volentieri. Esatto, mi fa veramente fammi fare piacere. Un excursus su questa cosa, il buon Cico, adesso noi siamo chiaramente cresciuti, abbiamo delle vite, impegni diversi, robe. Sì. Io la domenica però avrei piacere ogni tanto a beccarlo, perché al di là delle prove facciamo un po' fatica ultimamente a far balotta. E io regolarmente, delle volte capita che ci vediamo magari sabato pomeriggio, che andiamo da Merula a sbavare su piatti, chitarre, insomma facciamo i nerd, gli strumenti. Buttare via gli stipendi. Allora quando passiamo un paio d'ore così a prendere un po' d'aria, quando poi gli dico, vabbè dai, domani è domenica, no? Hai tutta la giornata libera, facciamo balotta. E sono anni che la sua risposta, è no! È un dito, no, non è un è no. È un dito medio. È un dito medio, senza neanche la risposta. Oppure dice con un suono parolacce. Esplosivo esatto, dito medio con l'esplosione. Non c'è verso di tirarlo fuori di casa la domenica, quindi mi fa piacere pensare che almeno sei a letto col telefono a sì, mandare a guardarmi il dadone, il dadone che fa la trasmissione, va supportato il dadone. Bella retroscena, questo mi mancava. Sì, non c'è tutto. Per tutti gli amici di Tommaso Cicotti, chi pensa di uscire con lui la domenica sbaglia di grosso. Non c'è verso. Vi mando un cartonato, vi mando. Diversamente sarebbe se fosse un soggetto femminile a chiederti di far balotta. O anche lì prenderebbe picche. Ah, ho preso delle picche. A prescindere, un no su tutto. No, sulla pietà la domenica. La domenica si è riposato il buon Dio, si riposa anche Tommaso. Esatto, sacrosanto. Non rompete le palle. Non fa una piega. E, tornando sempre a parlare del disco, ne stavamo parlando anche un attimo fa, quindi una domanda un attimo diritto, giusto che così per esternare anche questa cosa, no? Quindi da una parte la somma, però magari se lo vuole ripetere Catto, quali sono i vostri pezzi preferiti di questo nuovo EP, nonostante siano 5 se non mi ricordo male, e magari quello effettivamente un po' più allora la traccia che a me piace di più personalmente. Oddio, se la giocano due, che sono la Vita Eterna, il primo che abbiamo sentito, che è un tiro secondo me notevole, è bello lanciato, molto bello tirato, bello anche, piace anche come suonano le liriche. A livello di liriche però secondo me il pezzo più bello è Come Perle su un Filo, che è poi quella che andremo, io credo, scusate se vi faccio lo spoilerone, a ascoltare il finalone. Quella è un po' insistata da suonare, è l'ultimo pezzo che abbiamo composto da portare in studio quando abbiamo composto per andare poi a registrare, è proprio una di quelle che è stata pensata all'ultimo minuto, sì, frettolosamente chiusa per portare il sesto pezzo in studio, e quindi lavorato un po', no, seppur di fretta comunque lavorato no, bene, certo, perché noi certo. Cerchiamo sempre di lavorare come Dio comanda. Non buttata via assolutamente. E sono riuscito magicamente a trovare una linea vocale di un certo tipo che ovviamente adesso mi è rimbalzata nel di dietro. Perché poi tenerlo sul palco è quando c'è da cantarla e diventa un problema. Adesso venerdì, bisogna avere del fiato per fare quella traccia. C'è tutta una lirica un po' particolare che segue un po' il giro. La tematica è molto bella perché parla in generale del discorso del Signore Supremo, eccetera. Quindi è tutto, diciamo, un po' un omaggio alla fonte di tutto, diciamo. E il buon Malfe, che non so se ci sta ascoltando, lo salutiamo. Ciao Malfe. Ha detto che sabato il concerto se l'aspetta. Quindi questo è un problema, perché se lui se l'aspetta, noi lo dobbiamo fare, no? Giustamente. Certo. Poi presentiamo il disco con quella canzone. Quindi bisogna mettercelo. Quindi Come Perle su un Filo, sì. È probabilmente la mia preferita, è una delle più belle secondo me che abbiamo composto in generale, però da suonare è un discreto guaio. Sì. Però sì, insomma, sotto tutti i punti di vista è molto complicata, esatto. Comunque perché noi, come dicevamo prima, per gli scelti siamo fondamentalmente degli scappati di casa che si atteggiano a rockstar alla fine. Però dai. E no, il pezzo invece che mi piace forse un pelo meno, forse è per assurdo la canzone che dà il titolo all'album, che è Risveglio, che è una bella traccia, però secondo me non ha lo stesso tiro, diciamo, lanciato e potente che possono avere tutte le altre. E mi piace molto anche La giusta visione, che ci racconta appunto che siamo tutti uguali, no? In qualità di anima spirituale, qua poi cadiamo nel discorso filosofico che sta dietro alla band. Però il messaggio è molto bello e positivo, anche La giusta visione mi piace molto. Quindi prima di tutte, secondo me, Come perle su un filo, e ultima delle preferite, purtroppo, Risveglio. Però è un parere personale. No, beh, ci sta. Io chiedo sempre a tutti un feedback. Quando ci comprano il disco, ci ascoltano, chiedo sempre qual è la traccia che ti piace di più, qual è la traccia che ti piace di meno. Mi piace sentire le persone un po' come interpretano l'album. E effettivamente Come perle su un filo ha avuto tanti riscontri. Dai, buono a sapersi. E come promesso, Cicco, adesso tocca a te dirci i pezzi migliori, peggiori, spesso per modo di dire ovviamente, preferiti e un pochino meno del nuovo EP. Allora, per quello che mi riguarda, il pezzo più bello da suonare, da sfogarsi, diciamo, è Come perle su un filo, effettivamente, perché è molto impestato come struttura, però alla fine scoppia e dà proprio soddisfazione suonarlo. E invece quello che mi dà meno soddisfazione Dipende da te. È quello un po' meno grooveggiante, quello un po' meno tirato, un po' più, come dire, seduto del resto delle tracce del disco. Ma perché gli manca il breakdown? A Cicco piace fare maraglio sui finali. Beh sì, un po', diciamo che mi diletto a fare il maraglio un po' di tanto. I nostri pezzi sono tutti così, hanno un inizio esplosivo, perché non sappiamo stare a bada col tupa tupa. E poi dopo ci parte la sentenza finale con il rallentamento. Però sì, quella traccia, dipende da te, gli manca quella grinta finale. Quella grinta finale che di solito gli diamo, ecco. Vabbè, ci sta. E una domanda che ogni tanto tiro fuori in generale, avendo già un po' di buccia dietro, nel senso già diversi pezzi alle spalle, di quelli vecchi ovviamente, non di questi nuovi, perché da veramente poco che li avete tirati fuori, di quelli precedenti c'è qualcosa che cambiereste adesso a livello di... Mi manca farne molti, devo essere onesto, cioè mi manca portarli live, alcuni mi mancano. Noi ascoltiamo i dischi vecchi e ci rendiamo conto che sì. Da fare, intendo, no, da eseguire live. Dal vivo, anche ieri sera abbiamo suonato al Marche Hardcore con tante band fighissime. Ci rendiamo però conto che secondo me tanti gruppi suonano molto, cioè l'hardcore suonato molto, secondo me, un po' a una certa, un po', come dire, stufa. Per dire. E quindi anche noi cerchiamo sempre di fare delle scalette abbastanza tocca scremare. Però scremando, sai, tanti pezzi rimangono fuori che invece sono validi. Io mi ritrovo, ti dico, ti stavo dicendo anche poco fa, qui, come si dice, quando c'era il pezzo sotto, la pubblicità. A me piace ascoltare i nostri dischi e sono soddisfacenti. E quindi delle volte si fa fatica a lasciare fuori qualcosa. Perché sarebbe bello anche farle anche tutte banalmente, insomma, una ventina di pezzi in tutto più o meno composti. Sì, più o meno sì. Però sei costretto chiaramente a fare una certa. È che stare su un palco con questo genere per tanto tempo diventi un po'. Noioso quasi, certo. Meglio andare via prima, lasciare un po' di acquolina in bocca alla gente, lasciare un po' di appetito per quanto riguarda la band, così magari tornano. Un piccolo incipit. Esatto, ti lasciamo un po' con l'appetito. Questa cosa noi l'abbiamo imparata dagli Ed di Bologna, band storica di Bologna, che sicuramente qualcuno che all'ascolto conoscerà. Magari qualcuno conosce, esatto. Noi da ragazzini pre-internet avevamo la smania di vederli dal vivo. Quando arrivava il momento ti facevano una scaletta da un quarto d'ora. Sì, poi se ne andavano. E tu rimanevi lì come un cretino e dici: merda, cioè, hai aspettato un mese, due esatto. mesi per vederli. E poi sti bastardi, capito? Boom, facevano tutto a cannone. E poi ti lasciavano lì. Cioè, facevano... Poi vabbè, durante il live ti tiravano giù, sì, tutto, poi, esatto. Ovviamente. Ah, me lo ricordo. Erano qualcosa di incredibile. Erano fenomenali. Poi dopo che. Però tu ne volevi ancora un po', no? Invece loro tac. Ti lasciavano lì e tu rimanevi lì. Tutto qui. Fantastico. E sta cosa è intelligente, perché noi rimanevamo con la voglia, capito? Poi mettici che io dal palco, comunque, per me è una cosa fondamentale che ci tengo a sottolineare, è importante che un gruppo hardcore, secondo me, condivida i messaggi che porta all'interno dei pezzi, perché sennò ragazzi non andiamo, cioè adesso senza far nomi, però mi capita spesso di vedere delle band che sì, magari cantano anche in italiano, quindi magari dal palco qualcosa capisci, però se tu non presenti niente, se tu non dici niente, diventa uno showcase di te stesso, capito? O band che addirittura cantano in inglese senza dire niente tra un pezzo e l'altro, ed è pieno, soprattutto nel giro underground, dici, tu sei lì, dici, quindi? Cioè, cosa sto vedendo, cosa sto partecipando? Poi, magari il suono è figo, è tutto figo, però io penso che la chiacchiera buona tra un pezzo e l'altro, senza fare chissà quali sermoni, sia nell'hardcore sia quantomeno fondamentale. Tu sei molto migliorato, devo essere onesto con me. Io ho sempre paura un po' di esagerare con me, diciamo, i sermoni. Confermo effettivamente che un po' è giusto, è diventato, si è livellato per bene, giusto, buon canto, quel minutino di chiacchiera, sì, poi dopo boom, già cannone col pezzo. Sì, esatto, c'è questo, diciamo, contrasto tra la... Ragazzi, io non sono nessuno, ma parlate prima dei vostri pezzi, qualsiasi cosa abbiate da dire parlate, perché la gente si coinvolge di più, capito? Ma ieri sera, banalmente, senza, come dicevi tu prima, farsi le seghe allo specchio, ieri sera un ragazzo mi ha detto, un ragazzo mi è piaciuto molto, che mi ha detto lì a Fano al concerto, mi ha detto grazie per l'atmosfera che avete creato. Questa è una cosa, è un bellissimo, cioè al di là del bravo a cantare, bravo a suonare, che va bene, grazie, però bello il ringraziamento per l'atmosfera che avete creato, certo. Perché tu, io cerco di coinvolgere la gente, no? Cerco di un po' di tirarla dentro, e secondo me è importante, questo si fa solo tramite le chiacchiere, perché con col pezzo tante volte non si sente neanche niente, la voce è importante, secondo me, cioè questa deve esserci una condivisione, ecco. Ci sta. Io sono praticamente arrivato addirittura ad arrivo prima di ascoltarci l'ultimo brano, che come dicevamo era sempre di Colpestano, come pelle su un filo, quindi il brano principale di questo nuovo EP Risveglio. Vi chiedo semplicemente la mia domanda classica, scarica barile, che mi hai questo termine me l'hai indicato tu, Cato, mi ricordo in una volta, proprio del serio, scarica barile, e quindi me lo sono portato avanti, vai, che effettivamente va a descrivere effettivamente quello che l'ultima domanda, quella che è. Quindi, a domanda scarica barile, c'è qualcosa che non vi ho chiesto che vorreste dire? Allora, io vado un po' sul banale, voglio ringraziare tutti quelli che nel tempo ci hanno supportato, che visto il messaggio della band e tutto quanto, non è facile qui in Italia, questo forse l'ho detto già anche le altre volte, quindi grazie di cuore a tutti i ragazzi che ai concerti vengono, chiacchierano, acquistano, si interessano, ci avvicinano, grazie all'etichetta che ci sta supportando da tanto tempo, grazie mille, incondizionatamente, sempre, ci sta veramente facendo realizzare delle cose che io e Cicco suoniamo insieme da una vita, prima non eravamo mai riusciti a fare, perché non c'era, magari non avevamo mai trovato qualcuno che credesse così tanto in noi, invece adesso fortunatamente c'è, quindi grazie di cuore ad Armo e Viti di Devarisci, che veramente è della famiglia, praticamente noi siamo della sua etichetta, da ma cuore. È tutto un legame veramente familiare, è un amico prima di tutto, e tra l'altro non sta passando neanche un gran momento, quindi gli siamo vicini, diamo un abbraccio, siamo tanto grati, poi siamo grati, ripeto, a tutti quelli che ci hanno dato una mano, a Carlo del Toxic, a Marco per le copertine, e tutti quelli che hanno suonato con noi che ci coinvolgono, che insomma tutti quelli che nella famiglia Corpo Estraneo ci hanno dato una mano, si sono fatti coinvolgere, i ragazzi tutti, come dicevamo prima, che hanno suonato con noi, il buon Davide, il nostro bassista, siamo tanto grati, grazie mille, ragazzi. grazie di cuore anche a te che ci hai ospitato come sempre, terza volta qui se non dico male, sì, con tutto quello che avete dato fuori vi ho sempre chiamato, quindi, perché come vi penso mi fa sempre grazie. Veramente piacere, tanta gratitudine, grazie davvero mille. Bene ragazzi, io vi rimando i ringraziamenti per questa disponibilità, che ci siamo sentiti qualche giorno fa appunto prima di confermare tutta questa diretta, quindi grazie ancora e ci rivediamo praticamente il prossimo anno sempre qui in studio, perché da quello che ho capito salterà fuori qualcos'altro. Sicuro. E sicuramente lo facciamo solo per venire qua. No, vabbè, allora vedi. Io non riesco ad avere un programma mio in radio, faccio dei dischi così vengo ogni tanto a vedere com'è. Obiettivo raggiunto. Dai, grande. Benissimo, io come al solito a conclusione di Lestormore Rock, buon punk rock a tutti.